24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno cari ascoltatori, siamo qui 7:21 minuti, eccoci con Peter Bescapè, il nostro alpino in regia, siamo in diretta fino alle 9 anche oggi e parleremo di queste famigerate liberalizzazioni che si dice ci saranno. Un decreto dietro l'altro per fare finalmente la rivoluzione liberale di questo paese. Di che si tratta? Boh, non è che si capisca molto. Comunque benzina, avvocati, notai, farmacisti, tassisti, i nostri amici tassisti che ci ascoltano tanto e che sono sempre, come si suol dire con quest'altra espressione che va per la maggiore, sul piede di guerra, anche qui non si capisce cosa voglia dire, manifesteranno per portare avanti dei loro diritti. E allora ne parleremo alle 8, dalle 8:20 avremo anche il presidente della regione Toscana Enrico Rossi che si è scagliato contro la liberalizzazione per esempio degli orari dei negozi, no? Negozi più aperti, aperti più a lungo. Dalle 8:20 ne parleremo, per andare con ordine come al solito iniziamo dalla lettura dei quotidiani in edicola. Questo martedì 10 gennaio una rapida scorsa dei titoli di apertura, ogni quotidiano fa una scelta più o meno diversa, il Sole 24 Ore apre su Unicredit, via l'aumento, azioni e diritti sotto tiro, il crollo in borsa di Unicredit, mentre per il Corriere della Sera Merkel accelera sul patto europeo. Sulle liberalizzazioni aprono Repubblica, farmacie e notai si cambia e La Stampa, liberalizzazioni via in 10 giorni. Per Libero, i partiti fanno soldi con le nostre tasse, basta rimborsi elettorali. Poi c'è il caso malinconico, ci ritorneremo perché è deflagrato sui giornali. Ecco le telefonate che turbano Monti, il caso malinconico, così apre il giornale, mentre il Fatto Quotidiano, malinconico, ho pagato, sì, 4 anni dopo. Insomma, queste alcune delle aperture. Per Il Messaggero invece il capo dello Stato Napolitano che è andato dalla madre di Joy, la bambina cinese rimasta uccisa in questo duplice omicidio, un crimine orrendo, questo è il titolo di apertura del Messaggero. In ogni caso, io vorrei partire proprio dal caso malinconico, è diventato un vero e proprio caso, almeno dalla lettura dei quotidiani, la vicenda del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Carlo Malinconico, con delega ai fondi per l'editoria, che nel 2007-2008 ebbe una vacanza pagata circa 10.000 euro e si è saputo da una testimonianza dell'imprenditore De Vito Piscicelli, colui che rise del terremoto dell'Aquila, che quella vacanza fu pagata in pratica da Balducci, Angelo Balducci, quello della cricca cosiddetta, degli appalti, della cricca degli appalti. E vabbè, si sa, poi ci sono anche i titoli dei giornali che danno queste etichette. Beh, la vicenda di questa vacanza pagata, ora torna la frase a sua insaputa, perché Malinconico nelle prime giustificazioni diceva è stata pagata effettivamente da qualcuno, io chiesi chi, ma non mi dissero da chi, per motivi di privacy, e mi arrabbiai molto. Hotel pagato da Piscicelli, bufera su Malinconico, così titola pagina 24, il Sole 24 Ore, tra l'altro c'è anche un corsivo in cui si chiede Malinconico chiarisca davvero se può, altrimenti faccia un immediato passo indietro. Certo, niente di rilevanza penale, non ha mai indagato la magistratura su questa vicenda. Il Fatto Quotidiano e Il Giornale, come detto, ne fanno un cavallo di battaglia da qualche giorno. Oggi Il Fatto ci titola e dedica pagina 2 e 3. Casa e hotel a sbaffo, così lo viziava la cricca. La spiegazione di Malinconico, tra l'altro, dice Il Fatto, è la classica toppa, peggio del buco, perché dice Malinconico: io è vero non pagai e solo ora, ieri in una nota diffusa dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, solo ora dopo aver appreso dalle dichiarazioni della Stampa che Piscicelli avrebbe pagato di propria iniziativa e per ragioni a me del tutto ignote alcuni dei miei soggiorni presso la struttura alberghiera e per questo ho già proceduto a versare all'albergo l'intera somma dovuta con bonifico bancario, comunicando all'albergo stesso che ogni precedente pagamento disposto da altri deve considerarsi inaccettabile e privo di effetti. insomma, il Fatto ironizza dicendo: a questo punto ha pagato 4 anni dopo, quando è venuta fuori la vicenda. A mia insaputa, pure malinconico. Questo è il titolo di pagina 3 del Fatto Quotidiano. Ma guardate, su tutti i giornali c'è una pagina: il caso malinconico, mai fatto favori, il premier interviene. Così titola pagina 13 il Corriere della Sera, che intervista anche De Vito Piscicelli, che rilancia: mi spiace per lui, ma sapeva che i soggiorni erano pagati da Balducci. Mi aveva chiesto di anticipare i soldi in caso, in cambio di cosa? Nulla, dice De Vito Piscicelli. All'epoca non conoscevo Malinconico, non sapevo nemmeno che incarico avesse. Per discrezione non chiesi a Balducci, pensai che volesse fare un favore a un amico, ospitai Malinconico a casa mia a colazione, lo portai con me in barca, nacque un'amicizia, una persona squisita, mi dispiace pure che ora sia in questa situazione. E poi alla domanda: senta, ma la versione di Malinconico che ignorava chi avesse pagato il conto, e sentite la risposta di De Vito Piscicelli: ma lasci stare. La privacy, ma ripeto, ho grande simpatia e stima per Malinconico, ma vabbè, che deve dire? Lo so per certo, lui sapeva che pagava Angelo Balducci. Repubblica ci dedica 2 pagine, 6 e 7, governo, bufera su Malinconico, spieghi quei favori o si dimetta. Così appunto anche il giornale, pagina 2 e 3, Libero, un'intera pagina. Su Repubblica c'è anche un commento durissimo di Francesco Merlo in prima pagina, dal titolo «Quei politici a loro insaputa». Scrive Merlo: doveva cacciarlo senza aspettare che montasse la vergogna, sarebbe stata alta politica se Mario Monti l'avesse licenziato in diretta TV. E invece Fabio Fazio, tra 1000 comode domande, non si è ricordato, ops, di Carlo Malinconico Castrota Scandeberg. Ora dicono che Monti abbia finalmente avviato la procedura di dimissioni del suo nobilissimo sottosegretario all'editoria, ma già questa è un'idea barocca, un espediente doroteo per prendere tempo. Pare che lo abbia convocato stamani, ma avrebbe dovuto mandarlo via subito. Ed è una brutta pagina quell'intervista celebrativa di 40 minuti senza la domanda che qualunque italiano avrebbe fatto: cosa aspetta far dimettere questo sottosegretario che, come nei film di Totò sull'aristocrazia, scroccava il conto dell'albergo, 16.000 euro proprio alla famigerata cricca di Stato sui cui appalti esercitava allora potere e parola? Farlo dimettere prima che glielo chiedesse l'Italia, continua Merlo, sarebbe stata una prova di eleganza. Meglio non chiamarlo al governo, sarebbe stata una certezza di serietà. Tanto più che Malinconico, ex segretario generale della Presidenza del Consiglio, ex presidente degli editori, interrogato dai magistrati, si era perfino, come Scajola, fatto grullo per farci tutti fessi. Anche lui non sapeva che il conto gli era stato offerto. E quando l'ha scoperto si è, oibò, indignato. Allora ho deciso che non avrei più messo piede in quell'albergo. Già, cos'altro poteva fare questa ennesima povera vittima della solita ferocissima banda dei saldatori di conti altrui? Questo l'incipit dell'articolo di Francesco Merlo su Repubblica. Beh, insomma, è diventato un vero e proprio terremoto questa vicenda. Per qualcuno la vicenda si concluderà con inevitabili dimissioni. Eccoci qui alle 7:34 minuti. Allora, come detto, dalle 8:20 parleremo di liberalizzazioni, che è il tema un po' politico, in mano nell'agenda del governo Monti, di primo piano. Per esempio, ieri Catricalà è andato a Porta a Porta a parlare di liberalizzazioni, per l'appunto, misure entro il 20 gennaio. Intervento sulle banche, sulle categorie già citate, i tassisti, i farmacisti, i notai, gli avvocati e chi più ne ha più ne metta, per liberalizzare anche i distributori delle pompe di benzina, le professioni, insomma sembra addirittura d'arrivo il primo decreto del governo Monti per le liberalizzazioni. Già ci sono categorie che protestano. Oggi fa registrare La Stampa, per esempio, a pagina 5, come gli avvocati parlamentari siano, eccola qui l'espressione, sul piede di guerra. Tra l'altro noi avremo anche ospite l'avvocato Maurizio Paniz, che è onorevole anche. Francesco Grignetti racconta a pagina 5 di come gli avvocati siano già sul piede di guerra, per esempio per quel che riguarda il tema delle tariffe minime. Quando si andasse a toccare le tariffe minime, lo scontro sarebbe inevitabile. Si parla a vanvera, dice ancora per esempio Maurizio Di Tilla, presidente dell'organismo unitario dell'avvocatura. Eliminare le tariffe, non sanno che tanta parte dei nostri sono precari sulla soglia di povertà. D'accordo per esempio anche il senatore Filippo Berselli, che è presidente della commissione giustizia e anche avvocato. Eliminare i minimi significa alimentare una concorrenza al ribasso che è pericolosissima per la qualità della professione legale. Oppure anche viene citato Maurizio Paniz: se dovessero dirmi aboliamo l'ordine, non voterei nemmeno con la pistola alla tempia un provvedimento del genere. Insomma, diciamo che ci sono delle categorie che già si stanno mettendo di traverso. Oggi voglio registrare l'editoriale di Vittorio Feltri in prima pagina del giornale, parla proprio di questo. Il titolo è "Perché stiamo con farmacie, taxi ed edicole?". Si chiede Vittorio Feltri: siamo sul serio alla vigilia dell'agognata rivoluzione liberale? Leggi avidamente gli articoli per capire quale sarà il programma che ci riscatterà e proietterà nel futuro, ma quando arrivi in fondo ai resoconti dal tono trionfalistico ti accorgi di saperne quanto prima. Zero. O meglio, apprendi solo che i primi della lista per essere colpiti dai proiettili liberalizzatori sono tassisti, edicolanti e farmacisti. Già Romano Prodi e Bersani si erano proposti di distruggere i tassisti, vil razza dannata imbottita di denaro e privilegi, altro che casta, per Dio. O di massacrare quei porci di farmacisti che ingrassano grazie allo spaccio di supposte. O di strappare agli edicolanti il privilegio di arricchirsi vendendo i prodotti della macchina del fango. Ma sì, disintegriamo questa genia di farabutti. Avanti, lancia in resta, infilziamoli. Roba da matti. Scrive Vittorio Feltri, no? Che scrive più avanti: siamo alla commedia dell'assurdo, nel mirino ci sono sempre i soliti, anziché studiare un piano complessivo di liberalizzazioni per non far torto a nessuno e distribuire le rinunce con criteri di equità, si scelgono tre vittime sacrificali e si procede con crudeltà a dissanguarle. Ecco, questa è la difesa che Feltri fa di tassisti, edicolanti e farmacie. Come dire, si scelgono le categorie solite, si massacrano questi che non sono certo rappresentanti della cosiddetta casta e non si fa nient'altro. Avremo ospite anche il professor Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leoni, che oggi scrive in prima pagina di questo tema sul secolo XIX: chi ha paura degli orari liberi nei negozi? E Carlo Stagnaro racconta di liberalizzazione di orari, giorni di apertura degli esercizi commerciali, un servizio reso ai cittadini, così la pensa il 76% degli italiani. Da qui bisogna partire per capire gli effetti del provvedimento contenuto nel decreto Salva Italia. La ragione di questo 76% è semplice: la maggiore libertà di apertura implica che alcuni esercizi si specializzeranno nell'intercettare una domanda che oggi resta insoddisfatta. Dal punto di vista del consumatore significa un'opportunità in più, non solo e non tanto di fare acquisti più convenienti, quanto di ottimizzare il proprio tempo. Eppure, scrive più avanti nel suo commento Stagnaro, c'è chi si oppone. Per esempio, la Regione Toscana ha annunciato che farà un ricorso presso la Corte Costituzionale. Ne parleremo alle 8:20 con il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, per capire il perché si oppone a questo tipo di liberalizzazione. Vabbè, poi che cosa c'è ancora nell'agenda politica? C'è il tema della RAI, che è abbastanza anche questo deflagrato sui giornali, perché Monti è andato da Fazio a dire sulla RAI: aspettatevi delle novità nel giro di 2 settimane, che ecco che riemerge quel tema annoso e sul quale, cari ascoltatori, non riusciremo ad arrivare a nulla, non si approderà a nulla: liberare la RAI dalla politica. Non scherziamo neanche. Pagina 10 di Repubblica, in maniera un po', con obiettivi un po' meno esagerati, Mario Monti pare che voglia, così almeno scrive Goffredo De Marchis, pare che voglia un CDA, un consiglio di amministrazione della RAI che scade a marzo, ridotto. Oggi i consiglieri sono 9, potrebbero diventare 3 o 4. visto che al Tesoro, che è azionista quasi al 100% della Rai, ne tocca uno, è una pesante cura dimagrante per la politica. Certo, pesante cura dimagrante per la politica, ma politica e Rai vanno di pari passo da decenni e da sempre. Registro sempre, per quel che riguarda la politica, un'intervista al ministro della funzione pubblica Patroni Griffi, intervistato da Dino Martirano al Corriere della Sera, pagina 15, parla di super stipendi pubblici. Ecco, il tetto è pronto, cioè ci si riprova a mettere un tetto per gli stipendi dei manager pubblici. Il trattamento economico complessivo anno lordo del ministro ammonta a 205.000 euro. Questo è come si presenta con queste due righe pubblicate ieri sera sul sito della funzione pubblica il ministro Filippo Patroni Griffi. Sugli stipendi cumulati, però, anche lo stesso Patroni Griffi deve dire qualcosa, perché anche lui, diciamo, fa sapere il Corriere della Sera, non ha messo questa asticella sopra la quale non si può andare. Beh, risponde Patroni Griffi: sulla base della norma inserita nel decreto Salva Italia in sede di conversione, stiamo per completare il decreto di attuazione che fissi il tetto, e tenga presente che ci sarà una riduzione automatica a quel tetto. Sulle auto blu dobbiamo estirpare l'idea che l'auto blu sia uno status symbol, dice il ministro. L'auto blu è un mezzo operativo per consentire di lavorare meglio all'ufficio. Dopo il 20 gennaio, data a cui abbiamo prorogato il termine entro il quale vanno inviate le risposte alle amministrazioni, vogliamo verificare gli effettivi risparmi per sapere quanto si è speso nel 2011. Comunque, la domanda annosa e alla quale nessuno è mai riuscito a rispondere: quante sono grosso modo le auto blu? Circa 12.000 sono le vere auto blu in Italia, poi ci saranno circa 50.000 auto di servizio. Risponde anche Patroni Griffi a una domanda che lo riguarda, una vicenda che è stata anche questa una polemica giornalistica, vale a dire il fatto di aver acquistato nel 2001 una casa con le cartolarizzazioni dell'INPS a due passi dal Colosseo, un immobile considerato non di pregio, con tanto di sentenze fino al Consiglio di Stato. Oggi preferirebbe non aver acquistato quell'appartamento di proprietà pubblica, chiede Dino Martirano del Corriere. Sentite la risposta di Patroni Griffi: ho fatto una riflessione. Una persona investita da cariche pubbliche, prima di esercitare i diritti di un comune cittadino, deve chiedersi se l'esercizio di quel diritto poi possa essere, lo dico in senso buono, strumentalizzato. Deve porsi il problema per evitare che qualcuno poi trasformi l'esercizio di un diritto in una sorta di indebito privilegio. E non vorrei che anni di professionalità venissero accostati a situazioni, tipo la casa di Scaiola, che per la verità mi sembrano molto diverse. A proposito di case di zona, insomma, non ha risposto al fatto se preferirebbe non aver acquistato l'appartamento di proprietà pubblica. E riguardo l'ultima domanda, anche la vicenda proprio Malinconico: avrebbe accettato dalla famigerata cricca il pagamento di una vacanza? Io vorrei rispondere di faccende che riguardano me, risponde il ministro della funzione pubblica, ma sono sicuro che tutto si chiarirà e che il collega Malinconico chiarirà ogni cosa. Vabbè. Un'altra segnalazione dalla politica è un caso che mette in luce La Stampa a pagina 10. Ricordate quel decreto che poteva rischiare di far saltare le feste patronali di tutta Italia, se cadevano ovviamente durante la settimana? Passate le feste, gabbato il governo, è stato dimenticato un decreto e allora le feste patronali, cari italiani, se ci siete affezionati, sono salve anche quest'anno. È la rivincita dei santi patroni. Serviva infatti dopo questa norma epifania, così scrive Marco Bresolini ironicamente, quella che tutte le feste voleva portar via. Ci voleva un nuovo, ulteriore decreto per decidere quali festività spostare alla prima domenica immediatamente successiva. Il decreto andava fatto entro il 30 novembre, qualcuno si è dimenticato, qualcuno l'ha fatto apposta, chi lo sa, erano momenti in cui Monti si era appena insediato, forse si pensava ad altro. Sta di fatto che è stato dimenticato il decreto e le feste patronali sono salve. festeggia per prima Lodi, per prima, insomma, qualcuno festeggerà anche prima, anche a Parma per esempio, Sant'Ilario, addirittura la prefettura è intervenuta per dire e rassicurare a tutti gli abitanti, i cittadini di Parma: Sant'Ilario quest'anno, il 13 gennaio, è festivo a tutti gli effetti, così come il 19 gennaio a Lodi, giorno di San Bassano. Ricordate, è intervenuto anche il cardinale di Napoli a dire: la festa di San Gennaro non si tocca il 19 settembre, non si tocca anche se infrasettimanale. E si sono scordati un decreto, cardinale, quindi siete salvi. E allora, a proposito di politica, un'altra vicenda che rischia di creare una polemica infinita è quella che riguarda i finanziamenti fatti dalla Lega, dal tesoriere della Lega, Belsito, Francesco Belsito, segretario amministrativo nazionale, che ha fatto degli investimenti, una vicenda che è stata tirata fuori dal Secolo XIX in una brillante inchiesta, finanziamenti della Lega, soldi della Lega, rimborsi dati al partito, e che sono finiti anche in fondi a Cipro e in fondi in Tanzania. Quei fondi offshore non sono da padani, scontro ieri in segreteria della Lega, ma Bossi difende le scelte di Belsito, addirittura Libero a pagina 3 fa la notizia di apertura, nel senso che l'apertura di Libero è dedicata proprio ai rimborsi elettorali, dal titolo "I partiti fanno soldi con le nostre tasse", e poi l'articolo è "Ma che Padania, la Lega investe in Tanzania", con una lettera di Gilberto Oneto che scrive direttamente: "Caro segretario, sono un vecchio militante deluso e preoccupato. Bossi, batti un colpo e fai pulizia all'interno del partito". Lì pare che ci sia la solita divisione: maroniani contro bossiani. Addirittura, secondo il Secolo XIX, è stata una segreteria ieri in cui si è sfiorata la rissa, ma anche per il giornale: rissa sfiorata in via Bellerio, ma Bossi zittisce Maroni, ok ai soldi in Africa, mentre la base protesta per questa vicenda. Sempre per concludere con la politica, trovate anche notizie sulla vicenda che riguarda Nicola Cosentino, ex sottosegretario dell'economia, coordinatore campano del PDL. Domani, oggi la giunta per le autorizzazioni, ma soprattutto domani la Camera riunita dovrà votare su una richiesta di arresto da parte della Procura di Napoli. E attenzione, perché la Lega ha deciso di votare il sì all'arresto, e dunque è presumibile, se verranno rispettati i numeri dell'aula, che Nicola Cosentino dovrà andare in carcere. E questo lo scrive per esempio Fulvio Buffi sul Corriere della Sera, pagina 17. Gli amici di Nicola Cosentino dicono: Nicola sta come uno che sa che tra due giorni dovrà andare in carcere. Allora, il Sole 24 Ore dedica l'apertura e varie pagine interne alla vicenda Unicredit, la vicenda della più grande banca italiana che sta soffrendo moltissimo per quel che riguarda il titolo in borsa. Nel primo giorno dell'aumento di capitale da 7,5 miliardi, il titolo ha chiuso ieri con una seduta in ribasso del 12,8% a 2,28 euro. I diritti sono scivolati del 65% a 0,47 euro. La Fondazione Cari Verona ha portato la propria partecipazione nella banca dal 4,2 al 3,5%. La Consob ha annunciato controlli. Insomma, diciamo che è in difficoltà lo stesso numero uno della banca, Ghizzoni, dice, l'amministratore delegato per la verità, dice: non ci aspettavamo questo calo, ma la bontà dell'operazione, vale a dire dell'aumento di capitale, non è in discussione. La borsa sfida l'aumento Unicredit, trovate tutti i dettagli a pagina 3 di come è andata in borsa, ma anche un vademecum per capire se vendere o esercitare i diritti dopo la pesante flessione subita dalle azioni. Sull'aumento di capitale a 7,5 miliardi, l'aumento di capitale più grande per una banca italiana. Tutti i dettagli li trovate sul Sole 24 Ore a pagina 5, le domande e le risposte per chi è già azionista. Come funziona l'aumento di capitale, se conviene aderire o no, se si può vendere anche soltanto una parte dei diritti, e per chi invece vuole diventare socio, se sia il momento di acquistare azioni Unicredit oppure no, se si può vendere, se conviene acquistare le azioni o i diritti. Insomma, tutte queste domande troverete delle risposte. A proposito di banche, Il Sole 24 Ore, ma tutti i giornali si concentrano su quello che è successo in Svizzera. Io ve lo voglio sottoporre all'attenzione perché è una vicenda magari che appare lontana, non geograficamente, ma lontana dalla nostra mentalità. Intanto si è dimesso il governatore della Banca Nazionale Svizzera, il cuore dell'economia, della finanza svizzera, Philipp Hildebrand. Ha dato le dimissioni perché? Perché nell'agosto scorso la moglie Kasia aveva fatto un'operazione comprando circa $500,000 con un conto intestato a nome dello stesso marito, Philipp Hildebrand, presso una banca privata, e c'era l'accusa di insider trading nei confronti della moglie. Questa operazione era stata fatta poche settimane prima che l'Istituto Elvetico introducesse una soglia di cambio per indebolire il franco. Dunque, l'operazione, si pensa che la moglie avesse speculato su questo. Ma la spiegazione del governatore, sentitela, è questa, del perché delle dimissioni. Il governatore ha sempre detto: ha fatto tutto mia moglie, anche se era su un conto a mio intestato, lo ha fatto lei, io non c'entro nulla. Ma ho frugato in ogni scaffale, ho cercato ogni documento, ma non sono purtroppo riuscito a trovare la prova definitiva per dimostrare che le transazioni sono avvenute come ho detto io, e cioè che sono state ordinate da mia moglie. E quindi, siccome resta la mia parola d'onore, che ho dato giovedì scorso e che posso ribadire, ma questa parola d'onore non può fugare ogni dubbio, non resta che dimettermi. Cioè, il governatore dice: ha fatto tutto mia moglie, ma siccome ho frugato in ogni cassetto della stanza, delle nostre camere, e non ho trovato la prova per dimostrare questo, devo rassegnare le dimissioni. Questo succede in Svizzera. Ha rassegnato le dimissioni anche Vecchioni. Ve lo ricordate la polemica di Vecchioni, chiamato e con lo stipendio forse di 220.000 euro, è stato anche nostro ospite Roberto Vecchioni a Napoli, presidente del Forum delle Culture. Vecchioni lascia il Forum. Per Napoli farò solo l'artista, così titola il Corriere della Sera, e anche Repubblica: ringrazio Napoli ma ritorno a fare il poetastro. C'è anche una lettera pubblicata da Roberto Vecchioni. Due considerazioni in conclusione: non si capisce perché Tanzi sia stato trasferito in carcere. C'è una legge che proibisce di trasferire e soprattutto di fotografare e di pubblicare un uomo in manette. È una vicenda che risale da Mani Pulite, e troverete tutta una bella foto di Calisto Tanzi, che ieri ha avuto anche un malore in aula, con le manette. Il Messaggero, per esempio, lo mette in prima pagina: Tanzi trasferito con le manette, malore. E in prima pagina c'è questa foto: Tanzi in manette. Perché? Pallido, malfermo, le manette gli serrano i polsi, se lo fanno lo rendono più curvo. Ma che servono le manette? Può fuggire un uomo così? No, non può fuggire. E poi il Messaggero non lo ricorda, c'è anche una legge che proibirebbe la pubblicazione di una persona che viene portata in tribunale in manette. E lo vedrete, un Calisto Tanzi certamente sofferente nelle foto. 24 mattino. Allora, bentrovati da Alessandro Milan, sono le 8 e 20 minuti. Come detto, oggi parliamo di liberalizzazioni fino alle 9. Intanto lo vogliamo fare con il presidente della regione Toscana, Enrico Rossi. Presidente, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Senta, per quel che riguarda la liberalizzazione degli orari dei negozi, di apertura dei negozi, che era già prevista nel decreto Salva Italia, lei ha già annunciato e ha detto la Regione Toscana si opporrà. Perché opporsi a questa apertura, a una maggiore liberalizzazione degli orari? Sull'opposizione di carattere formale ne parleremo anche con le altre regioni alla prossima conferenza stampa. Non sono il solo, insomma, ad avere preannunciato la possibilità di fare anche ricorso alla Corte Costituzionale, perché già la Corte si è pronunciata in materia di orari e in materia di festività, ha confermato che sono di competenza regionale, mentre la concorrenza a cui fa riferimento l'articolo del decreto Salva Italia, che liberalizza orari e festività, dovrebbe fare riferimento diciamo, all'aspetto della concorrenza che invece è ancora competenza dello Stato. Ma insomma, credo che ci sia bisogno, come dicendo un po' da quello che ho detto finora, di un confronto serio con il governo, perché io penso che la liberalizzazione non può essere 365 giorni all'anno per 24 ore, perché questa è una deregolamentazione, insomma è una sorta di banda libera tutti che credo non abbia uguale in tutti i paesi europei e anche insomma negli altri paesi. Io sono stato qualche volta negli Stati Uniti, se si esclude qualcosa a New York, credo che poi in tutto il resto degli Stati Uniti le cose funzionano. Sono le chiusure, ma magari sono a scelta, cioè voglio dire, non c'è una maggiore libertà del consumatore di poter... Sì, ma insomma la società in cui viviamo è per sua natura complessa e credo che il governo dovrebbe avere un po' più fiducia anche nel ruolo che possono svolgere le regioni e le regioni a loro volta avere fiducia nel ruolo che possono svolgere i comuni. Penso che ci sia spazio per riconsegnare alle regioni la loro competenza in materia di commercio e poi, come abbiamo fatto ad esempio in Toscana, dare il ruolo di decidere sulle aperture, di decidere anche sulle festività ai comuni stessi, magari anche ai comuni in forma associata per situazioni locali omogenee, in modo da evitare che ci sia quella sorta di corsa ad aprire continuamente. Trovare anche attraverso il confronto con le parti sociali le regole. Il commercio è già abbastanza liberalizzato nel nostro paese, sì. Noi dobbiamo stare attenti che un'ulteriore liberalizzazione nel senso di una banda libera tutti colpisca eccessivamente i piccoli negozi e io credo che anche le lamentele che vengono da questo mondo debbano essere prese in seria considerazione. Quindi anche i piccoli, ma però glielo e dice lei... rischiano anche di concentrare... insomma certi generi, la vendita di certi generi solo nei grandi supermercati, sì. Anche con effetti relativamente alla sicurezza, alla qualità urbana, insomma sono aspetti che credo bene che siano valutati. Ma glielo dice lei a Bersani, che Bersani sa che da ministro era quello della liberalizzazione e ha detto è una bella sfida, è il capo del suo partito. Ma ieri sera ho sentito, mi sembra che ha detto, poi insomma i capi esistono ma ci sarà anche la libertà di discutere, insomma. Vabbè, per carità. E poi comunque ieri sera Bersani in televisione ha detto che sui commercianti insomma ci vuole equilibrio perché anche per lui i commercianti hanno già dato abbastanza. Io credo che bisogna trovare un tavolo dove questi temi si discutono e dove si trova appunto l'equilibrio giusto. L'esperienza di Modena mi sembra francamente interessante. La liberalizzazione la si fa per abbattere il costo del bene che si vende ai cittadini, sì. E per garantire anche la concorrenza. Io non si deve smarrire questi due obiettivi. Allora, bisogna dire, attenzione, perché un orario eccessivamente prolungato comporta che vengano assunte delle persone, cosa che da una parte è senz'altro positivo, ma dall'altra potrebbe anche, come dicono gli stessi proprietari della grande distribuzione, ripercuotersi negativamente sul costo delle merci. Dall'altra, il piccolo negoziante che non è in grado di prolungare le aperture perché non può legarsi al banco della propria bottega rischia di essere messo fuori dalla concorrenza. Insomma, occorrono misure equilibrate. Quando lei sente parlare di liberalizzazione, perché lei è stato già critico con Monti su altri aspetti, l'aspetto per esempio del decreto Salva Italia. Sono stato critico come molti sul fatto che secondo me questo decreto andava fatto, detto che andava votato molto prima di altri. Ho detto però che contiene anche qualche carattere di iniquità. Per quanto riguarda le liberalizzazioni, però mi faccia dire, insomma, la Toscana parla poco ma fa prima degli altri. Le porto due esempi e così si riapre un po' di discussione, magari perché no di polemica. Noi sfido a sapere quale altra regione che ha avuto dallo Stato la consegna delle compagnie navali di collegamento con le isole ha già fatto la liberalizzazione che noi abbiamo fatto. Noi la Toremar l'abbiamo messa a gara, abbiamo fatto una bella gara con 11 partecipanti, sono stati salvaguardati i posti di lavoro, abbiamo risparmiato 10 milioni di euro, abbiamo anche congelato il costo del biglietto per 10 anni e abbiamo anche imposto il rinnovo delle navi che erano francamente fatiscenti. Abbiamo preso dallo Stato la ruggine, ci siamo fatti coraggio, abbiamo fatto una gara vera, pubblica, e abbiamo ottenuto un risultato importante. Vedo che si parla di trasporto pubblico, sì. La Regione Toscana ha messo insieme tutte le province e le 14 aziende del trasporto pubblico che avevano la concessione in privativa da ormai non si sa quando, insomma da quando esistevano, e ha stabilito che nel corso di quest'anno, entro giugno, ci sarà una gara unica per individuare il gestore di tutto il trasporto pubblico su gomma in Regione Toscana. Siamo la prima regione che fa la liberalizzazione. Quindi dice, questi sono due punti. Senta, Presidente... No, non vorrei, ecco, io vedo che si parla molto di liberalizzazione, non vorrei che si ritornasse alla politica degli annunci, insomma. Ma infatti adesso staremo a vedere, perché... fanno pena, come dice Monti, però fanno anche un po' pena i tecnici quando per ottenere il consenso rincorrono i politici e fanno i proclami e gli annunci da Vespa la sera a mezzanotte. Lei vede un po' troppe annunci. Profondità delle cose. Senta, due domande per chiudere la questione. Una è, ieri il Sole 24 Ore ha anticipato tutta la questione delle addizionali IRPEF regionali. Oggi c'è una nuova puntata, la media dell'importo maggiore che pagheranno i cittadini è 67 euro. La Toscana è additata a 68 euro, diciamo, quindi un euro sopra la media. Sono davvero necessarie di più queste tasse locali in più per far fronte? Ma io non lo so, posso parlare della regione. Per quanto riguarda la Regione Toscana, noi abbiamo messo solo uno 0,5 per i redditi sopra 75.000 euro, allo scopo di trovare quei 10 milioni che appunto servono per il trasporto pubblico locale. Però nuove tasse, gli italiani vedono sempre nuove tasse. A me risulta che in quanto regione toscana, noi siamo insieme alla Basilicata, insieme alle province autonome, in quanto regione, con un IRPEF che è il più basso d'Italia. Questo lo può vedere appunto sul Sole 24 Ore di ieri. E tenga conto che sono regioni e province autonome e che il nostro confronto con la Basilicata non si può fare perché, insomma, il mio amico presidente della Basilicata ha la fortuna di avere le royalty sul petrolio. A me piacerebbe avere quelle sulla geotermia, ma purtroppo non ce li ha. Ancora non sono riuscito ad avere. Quindi questa cosa va evidentemente vista andando ad indagare quello che hanno fatto nello specifico i vari comuni della Toscana, che come sa anche loro sono possessori di un'accise, di un aumento, insomma, di una possibilità. Sì. Un'ultima domanda, governatore, è questa. Oggi Libero, non so se l'ha già letto, parla della vicenda malinconica del sottosegretario all'economia, della famosa forse vacanza pagata a sua insaputa, insomma la polemica questa la conosce, ma il titolo di Libero è questo: gli affari del vice Monti con la Regione Toscana, cioè Carlo Malinconico, che è anche avvocato, ha uno studio di avvocato, è anche uno studio a cui si appoggia molto la sua regione e si chiede Libero, con tutti gli avvocati che avrete in regione, perché appoggiarsi allo studio di Malinconico? Ma era un avvocato con cui avevamo già rapporti, insomma niente di speciale, ha avuto degli incarichi dalla Regione Toscana come penso li abbia avuti da tante altre istituzioni. Libero ne dice tante, qualche volta pure sbaglia, insomma. Quindi, e questa polemica lei che ne pensa della polemica Malinconico invece della vacanza? Penso che faccia bene Monti, insomma, che debba rendere conto su perché questo signore ha avuto questi alberghi pagati, insomma, ecco, a me gli alberghi non me l'hanno mai pagati e credo che sia giusto domandargli perché. Qual è la ragione? Ma dovesse il fatto succedere che qualcosa. Si sia rivolti allo studio Malinconico per la tutela in sede legale di alcune pratiche della Regione Toscana, non vedo davvero che problemi possa creare. Cioè, non è che dopo questa vicenda uno dice togliamo allo studio Malinconico per questioni di etica, non ci appoggiamo più a lui. Gli incarichi che abbiamo già dato allo studio Malinconico, io penso che andranno portati avanti. Quelli sì. Poi ci sono stati momenti in cui lo stesso Malinconico si era sospeso perché aveva incarichi di governo, quindi insomma è uno studio a Roma sul quale ci siamo appoggiati, niente di più e niente di meno. Va bene, la ringrazio Presidente per essere stato grazie con noi. Grazie al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi del Partito Democratico, e noi però continuiamo a parlare del tema liberalizzazioni, 800 24 00 24, si parla di categorie, i tassisti, i commercianti, gli ordini professionali, gli avvocati, i notai, i farmacisti, chi più ne ha chi più ne metta, la questione della benzina che continua a salire, siamo la benzina più costosa in Europa, abbiamo sempre qualche piccolo record noi in Italia. 800 24 0024 se volete intervenire, siamo anche sulla nostra pagina Facebook in diretta tra pochissimo. 24 mattino. Allora, alle 8 e 35 minuti continuiamo sul tema liberalizzazioni, che pare il tema principe dell'agenda del governo Monti. Dopo aver ospitato il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, saluto l'onorevole Maurizio Paniz del Popolo della Libertà. Buongiorno e ben ritrovato Paniz. Buona giornata a tutti. Come è sta? Un piacere. Avvocato, avvocato. Anzi, anche avvocato. Anche avvocato. Anzi, dicono la lobby degli avvocati è la più potente. Siete tantissimi in Parlamento. Quanti siete? Penso una settantina, poco più, poco meno, ma alla non Camera. Certamente sì, alla Camera, ma non certamente meno dei giornalisti, che sono più o meno altrettanti. Ah beh, però insomma, no, mi sa che siete un po' di più voi avvocati, però insomma pare anche molto agguerriti. Oggi tra l'altro La Stampa dedica una pagina proprio agli avvocati parlamentari sul piede di guerra, c'è anche lei sulla questione dell'ordine, ma tra poco ne parleremo. Saluto anche Carlo Stagnaro, che è direttore di ricerca e studi all'Istituto Bruno Leoni. Stagnaro, buongiorno e bentrovato. Buongiorno. Allora, Stagnaro oggi tra l'altro scrive invece sul Secolo XIX sulla questione, un commento proprio sull'apertura e la liberalizzazione degli orari dei negozi. Stagnaro, prima avevamo il Presidente della Regione Toscana Rossi, che ha detto faremo ricorso alla Corte Costituzionale come altre regioni contro questo principio, che non è un principio di libertà, cioè non è che liberalizzare vuol dire aprire più delle 13 ore già consentite nel commercio, e poi è una questione regionale, vabbè, ma qui è una questione tecnica. Stagnaro, perché intanto come vede questa opposizione non solo della Regione Toscana a queste liberalizzazioni dell'apertura dei negozi? Ma io ho trovato abbastanza stupefacente l'argomentazione di Rossi, nel senso che da un lato liberalizzare non vuol dire obbligare tutti a tenere aperto tutto il giorno, tutti i giorni, vuol dire lasciare questa possibilità ai negozi e alle catene della grande distribuzione, che ne approfitteranno se e solo se c'è della gente che va a fare la spesa a mezzanotte. Qualcuno dice però per il piccolo magari diventa un obbligo, nel senso che si vede il centro commerciale a 5 chilometri che ha i mezzi e le possibilità per tenere aperto, altrimenti io cosa faccio? Devo attrezzarmi anch'io e rimango incollato qui. Beh, fino a un certo punto, nel senso che il piccolo tipicamente risponde a una nicchia di mercato diverso, ma al di là di questo la domanda che ci dobbiamo fare è noi, e l'obiettivo, come dire, della regolamentazione, delle norme che si approvano è tutelare il consumatore o tutelare il piccolo esercente? Perché se l'obiettivo è tutelare il piccolo esercente, vietiamo la grande distribuzione, facciamo prima, no? Se invece l'obiettivo è consentire al consumatore di scegliere come gestire la propria giornata, allora la risposta è diversa. E a questo proposito io credo che, se posso permettermi una piccola polemica, il Presidente Rossi abbia detto due cose che non stanno né in cielo né in terra. La prima è, come dire, la preoccupazione che il settore del commercio debba assumere dei nuovi dipendenti. In questo momento onestamente mi porrei altri problemi, ecco, non fare la guerra a una norma che rischi di creare occupazione, e peraltro pensare che creare occupazione voglia dire creare costi e aumentare i prezzi per i consumatori, come dire, cozza con quello che abbiamo imparato in un paio di secoli di studio dell'economia, da un lato. Dall'altro lato ho trovato, come dire, ancora più sconcertante che il Presidente non si sia reso conto che aumentare le libertà di orario non è tanto una questione di intervento sul prezzo, ma è una questione di intervento sui tempi. Sapere che i negozi sono aperti anche dopo l'orario d'ufficio vuol dire che io, lei, una madre con dei figli e quant'altro possiamo andare a fare la spesa dopo l'orario d'ufficio senza rinunciare alla pausa pranzo. Si può organizzare. Onorevole Paniz, la questione, il Popolo della Libertà dovrebbe essere il popolo, no, come dice anche il nome stesso, un partito aperto alla liberalizzazione, accogliere a braccia aperte queste proposte del Premier Monti e dei suoi sottosegretari. Ecco, però si parla tanto in Italia e poi quando si va a toccare le categorie, e qui lavorerei sulla questione avvocati, anche oggi la stampa dice, ah, attenzione però, non toccate, non so, le tariffe minime per esempio, non toccate l'ordine, in questo caso l'ordine degli avvocati, cioè non c'è sempre una tutela corporativa quando si va a toccare le questioni da fare? Noi siamo oltremodo favorevoli alle liberalizzazioni in senso generale e non è vero che difendiamo categorie specifiche, difendiamo interessi dei cittadini e lei ha giustamente ricordato il tema degli avvocati, approfondiamolo pure, gli avvocati in Italia sono 250.000, sono esattamente 10 volte di più di paesi omologhi nel panorama europeo, addirittura per quanto riguarda coloro che possono patrocinare in Cassazione siamo a 30-40 volte di più rispetto a paesi omologhi come Francia o Germania, quindi la concorrenza in Italia è amplissimamente assicurata. Quello che si vuole evitare è che ci sia un'immissione nella professione di persone che non hanno quella garanzia di qualità in grado di assecondare la tutela degli interessi dei cittadini, che sono interessi importanti perché attengono alla libertà individuale e a diritti economici che altrimenti rischierebbero di essere fortemente compromessi dalla mancanza di professionalità. Quindi lei dice per esempio l'ordine garantisce, la presenza dell'ordine garantisce che non entrino tutti? Che non ci sia uno sterminato esercito di questo è il sistema attuale. Se vogliamo trovare però un sistema diverso, noi siamo disponibili. Ci deve essere comunque la garanzia di un controllo di qualità nell'accesso alla professione. Se immettiamo, come qualcuno pensava di fare qualche mese fa, 700-800-900.000 laureati in legge immediatamente, da un momento all'altro, ad esercitare la professione forense, non credo che facciamo l'interesse dei cittadini. Facciamo esattamente il contrario. E questo non lo dice un professionista che vuol tutelare la sua professionalità e il suo studio. Un professionista importante ha tutto l'interesse che ci sia un'immissione di una montagna sterminata di gente incompetente, perché appena il cittadino avrà la percezione che c'è gente incompetente vada in giro, andrà sicuramente da però, quello di cui è sicuro. Onorevole, cioè non è tanto, non è che liberalizzazione voglia dire, perché poi stiamo parlando ma non si sa bene in concreto cosa voglia dire, non è che vuol dire aumentare il numero di avvocati, questo anzi è sempre stato detto che sono anche certamente troppi e quindi si vanno a procacciare le cause. Parliamoci chiaro. Allora però, vede che abbiamo già messo un primo paletto importante. Però la questione, per esempio, le tariffe minime che Bersani aveva tolto, che Tremonti ha rimesso, perché, oppure la possibilità di fare pubblicità da parte degli avvocati, addirittura adesso si dice con la faccia metterli, eccomi sono l'avvocato, cioè queste sono le misure, oppure eliminare i tribunali di realtà piccole, che creerebbe un po' di problemi ovviamente. Allora affrontiamo uno per uno i vari temi e prima di tutto quello dei tribunali piccoli che lei ha citato per ultimo. I tribunali piccoli sono sinonimi di efficienza in genere nel nostro ordinamento, sono tempestivi nel risolvere le questioni, sono direttamente a contatto con i cittadini, risolvono una problematica, quella della giustizia, nell'interesse proprio dei cittadini stessi. Eliminarli mi sembra assolutamente inopportuno, salvo in piccoli, in peculiari casi dove ce ne siano due magari a vicine, a distanza molto prossima, qualcosa di questo genere, allora si può affrontare la tematica, ma dire che un tribunale piccolo va eliminato solo perché è piccolo significa contraddire l'esigenza di una giustizia veloce ed efficiente. Secondo tema, quello delle tariffe. Personalmente non ho nulla in contrario, però voglio far rilevare che se vengono eliminate le tariffe piccole, minime, chi si avvantaggia non è il cittadino qualsiasi, è la grande lobby delle banche, la lobby delle compagnie assicuratrici. Perché? Che contrattualizzerà i professionisti a cifre molto basse. Il singolo che va a cercare un risultato non si porrà il problema del pagare un po' di più o un po' di meno, vuole il risultato e non avrà la forza di contrattualizzare il rapporto con il professionista. Magari vorrà anche vedere il prezzo, non so, su questo Carlo Stagnaro. Ma guardi che non si vende, non si vendono le cause come si vendono i chili di frutta o i chili no di ma pane. Questo è certo, uno è vuole certamente diverso. Intanto vincerla quando si vuole professionalità, ci vogliono risultati e il professionista importante non è il più caro, se lo ricordi bene. Però quando magari una lettera costa da una parte 100 euro, magari una lettera, un atto banale 100 euro 500 euro, questo certo fa differenza. Carlo Stagnaro, sulla questione degli avvocati, poi parliamo anche delle tre categorie che mi interessano perché scrive oggi Vittorio Feltri sul giornale, vengono inspiegabilmente messe sotto tiro, cioè tassisti, farmacisti e edicolanti. Però Stagnaro, una replica sulla questione avvocati. Sì, due cose, mi scuso se appaio polemico, però forse l'avvocato Panizzi non va a fare la spesa, però comprare la frutta è altrettanto importante, critico e pericoloso quanto andare da un buon avvocato. Mangiare frutta variata può far male, quindi come dire, eviterei questo tipo di battute come dire, eccessivamente snob, e considererei invece il fatto che ci sono delle persone per cui pagare un po' di più o pagare un po' di meno può effettivamente fare la differenza in termini di accesso al servizio. Poi c'è un altro tema, si dice gli ordini, l'attuale sistema ordinistico tutela la qualità del servizio. Bene, guardiamo qualche numero, per esempio il numero di procedimenti disciplinari. L'Italia è uno dei paesi in Europa dove il numero di procedimenti disciplinari contro gli avvocati è più basso, i dati del Consiglio d'Europa ci dicono 2,3 ogni 1000 avvocati contro per esempio 217 in Finlandia. Delle due l'una, o gli avvocati italiani sono santi, quindi non abbiamo bisogno degli ordini, oppure gli ordini non funzionano così bene come viene detto, nel qual caso meritano di essere riformati. Allora, io dopo il traffico vorrei ripartire da questo. Scrive oggi Vittorio Feltri in prima pagina sul Giornale: già Prodi e Pierluigi Bersani si erano proposti di distruggere i tassisti, vil razza dannata imbottita di denaro e privilegi, altro che casta, per Dio, o di massacrare quei porci di farmacisti che ingrassano grazie allo spaccio di supposte, o di strappare agli edicolanti il privilegio di arricchirsi vendendo i prodotti della macchina del fango. Ma sì, disintegriamo questa genia di farabutti e avanti, lancia il resto, infilziamoli, roba da matti. Questa è la difesa polemica, ovviamente con toni anche molto duri, di Feltri, che scrive: perché stiamo con farmacie, taxi ed edicole, cioè tre categorie professionali prese da Vittorio Feltri, come a dire, invece di riformare in maniera davvero liberale le cose più importanti, cosa si fa? Si prendono i soliti, in questo caso edicolanti, tassisti e farmacisti, e li si dissangua economicamente e finanziariamente. Allora, intanto un ascoltatore all'800240024, il tema liberalizzazioni, Roberto dalla provincia di Perugia, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Volevo intervenire riguardo alle liberalizzazioni commerciali, visto che sono il presidente della Confcommercio di Todi e visto che è una piccola Confcommercio, un piccolo centro. Io penso che quando si parla di liberalizzazione di orari, di possibilità di fare la spesa, innanzitutto bisogna conoscere prima di tutto il commercio. Noi abbiamo subito una legge, ci tengo a precisare, subito una legge liberalizzazione del 98, la legge Bersani, che diceva le stesse identiche cose: maggiore aiuto ai consumatori, più concorrenza, più cos'è. Allora io penso che prima di vedere, di andare avanti con questa strada, cerchiamo di capire quello che è successo in questi 12 anni, perché noi tutti lo possiamo vedere. Possiamo vedere che il piccolo commerciante è sparito, i centri storici delle città sono tutti identici, perché sono tutti identici, cambia solo i monumenti dei centri storici delle città, ma sono tutti con gli stessi negozi in franchising, tutti con gli stessi marchi, e ci sono la grande distribuzione che si sta mangiando letteralmente l'una con l'altra. Quindi, questo è l'effetto che c'è stato? Questo non è quello che dico io, è la realtà. Anche perché poi lei deve sapere quante famiglie di commercianti che hanno visto il negozio come ammortizzatore sociale per un figlio, per una figlia, quindi hanno con facilità dato la possibilità di aprire il negozio, magari ipotecando una casa o mettendo la liquidazione del padre che faceva l'operaio, sono oggi rovinate. E quante noi nei piccoli centri stiamo aiutando? Allora io penso che va fatta, io lo chiedo veramente, il mio nome lo dico, è Roberto Prosperi, non ho problema, io avrei bisogno veramente di parlare veramente di quello che ha fatto e ha portato la legge Bersani, perché se noi continuiamo con sta favola di consumatori, insomma, e comunque Roberto, per concludere, lei non è neanche favorevole quindi a queste liberalizzazioni che si prospettano del decreto Salva Italia sull'orario dei negozi, cioè anche quelle di Monti, come quelle di Bersani, come quelle di Monti, non le piacciono? Allora guardi, questo non è più un problema, la liberalizzazione che stanno accettando oggi, l'orario, è quello, ormai per noi non è più un problema. Io lo dico chiaramente, non porta niente né a favore né a svantaggio, né al consumatore né al commerciante. Inutile. Non è più un problema, è un provvedimento inutile. Va bene, lei. Grazie Roberto. Fabio da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Guardi, io volevo dire che secondo me le tariffe minime per gli avvocati sono giuste, anzi andrebbero anche estese ad altre realtà lavorative. Perché? Ad esempio, Ma semplicemente perché si sta svalutando notevolmente quello che è il lavoro delle persone ultimamente in Italia. Ci sono architetti, ad esempio, che sono costretti, e dico costretti per un problema di mancanza di lavoro, ad abbassare le tariffe a livelli minimi storici. Ci sono anche altre realtà che sono costrette a svalutare notevolmente il lavoro, e quindi una volta che parla una persona che vende la stessa prestazione a 50 euro, è difficile ridargli il valore che effettivamente quella prestazione ha. Va bene, grazie Fabio. Quindi la svalutazione del lavoro. Io vorrei da Stagnaro e dall'onorevole Panizza. Stagnaro, intanto, questa idea di Feltri che dice basta, cioè va bene liberalizzare, ma c'è un accanimento. Effettivamente tornano sempre fuori tassisti, farmacisti, adesso ci si sono messi anche gli edicolanti, cioè sono stati inseriti gli edicolanti, ma tassisti e farmacisti sempre, ma perché? Cioè, sono, c'hanno la rogna o sono la casta delle caste? No, non sono la casta delle caste e non sono sicuramente il maggiore dei problemi italiani in termini di mancata crescita, in termini di liberalizzazione. Questo non toglie che siano che non siano dei settori dove un intervento nel senso della maggiore concorrenza potrebbe avere effetti rilevanti sotto forma sia di miglioramento qualitativo del servizio sia di riduzione dei prezzi. Come dire, le due cose possono tranquillamente stare assieme. Ci sono anche altre cose importanti, ma il fatto che ci siano altre cose importanti non significa che questi non siano settori dove vale la pena mettere però, le mani. Però io, se fossi un tassista, io non so se i tassisti poi nel merito hanno abbiano più ragioni o più torto. Poi forse un tassista di Milano non ha lo stesso lavoro di un tassista di Forlimpopoli, però effettivamente c'è l'idea che ci sia una sorta di accanimento, un po' c'è o no? Ma più che accanimento, trovo anch'io abbastanza curioso il fatto che il tassista sia diventato in qualche maniera il simbolo dei mali italiani, e in subordine il fatto che questa battaglia simbolica venga combattuta da 5 anni e persa costantemente. Cioè, per chi spera nelle liberalizzazioni, dover ogni volta fare conti con la forza invincibile del tassista romano, effettivamente, come dire, non è molto incoraggiante. Detto questo, ripeto, il mercato dei taxi, soprattutto senza nascondercelo nelle grandi città come Milano e Roma, è un mercato che ha una serie di rigidità che dovrebbero essere rimosse, che migliorerebbero la vita di tutta una serie di categorie di persone, non della totalità ovviamente della popolazione, e non vedo ragione particolare per non intervenire, pur nella consapevolezza che un intervento deve avere anche degli elementi di come dire, contenimento dei costi per i tassisti che hanno comunque investito i loro risparmi nell'acquisto di una licenza. Onorevole Panizzi, io vorrei chiederle questo, cioè lei dice che non c'è un po' la lobby, sempre che lobby poi sia una parola di per sé negativa, cosa che per esempio negli Stati Uniti non è, una lobby degli avvocati parlamentari, così come quando c'è stato il tentativo di liberalizzazione dei farmaci di fascia C, pare che in Parlamento sia stato un gran movimento anche di Federfarma, che è riuscita ad avere degli appoggi politici per non far passare queste cose. Perché questo avviene e se è giusto che questo avvenga? Io credo che noi abbiamo a cuore prima di tutto l'interesse dei cittadini, e con riferimento alla posizione degli avvocati sono molto chiaro nel dire che non abbiamo nessuna difficoltà a cogliere dei segnali di modifica dell'attuale assetto normativo se sono proiettati nella direzione del rispetto dell'interesse dei cittadini. Si vogliono modificare gli ordini? Benissimo, non c'è nessuna disponibilità, si facciano delle idee, si propongano e verranno esaminate con estrema attenzione. Non ci si trinceri dietro il fatto che in Italia i procedimenti disciplinari sono meno che in altri paesi e si cominci a denigrare una categoria pensando che ci siano dei delinquenti soltanto nella categoria forense e quindi che debbano essere penalizzati di più da procedimenti disciplinari. Non si banalizzi la stesura di una lettera, perché c'è modo e modo di scrivere una lettera e di indirizzarla, e molte volte una causa si vince o si perde per come la causa è stata iniziata, per come è stata scritta la prima lettera. Quindi la qualità del servizio è assolutamente fondamentale per raggiungere i risultati. Però voglio dire, anche la questione dei farmacisti, Catricalà aveva detto che il 7-8% dei prezzi dei farmaci scendono se si apre anche alla liberalizzazione dei farmaci di fascia C, e non è stato fatto perché c'è stata un'opposizione in Parlamento su questo. Lo stesso Passer ha detto: sono rimasto sconvolto dalla forza delle lobby. Questo, per esempio, l'interesse dei cittadini di pagare meno i farmaci mi pare che sia abbastanza chiaro, eppure ci sono anche altri interessi a volte, cioè non... Guarda, io le rispondo sicuramente, non è un mistero, quanto... forse uno sarebbe meglio dire è giusto anche portare avanti degli interessi di lobby, uno lo io sa. Io dico invece che quello che orienta le scelte del Parlamento è l'interesse dei cittadini. può sembrare anomalo, ma in realtà è così. Noi valutiamo con estrema attenzione quello che può interessare al popolo italiano. Possiamo sbagliare nelle scelte, come tutti possono sbagliare, però questa è la nostra stella polare, questo è il nostro criterio di orientamento. Non è una questione di tutela di lobby, è che le cose qualche volta vengono viste anche in termini diversi, perché vengono prospettate in termini diversi. Se il governo è bravo, le prospetta nei termini giusti, sicuramente troverà da parte del Parlamento una condiscendenza e una disponibilità a seguire quelle che possono essere le nuove prospettive normative. Onorevole, mi risponda, ma devo chiudere in 10 secondi, anche se non c'entra niente, ma è una vicenda che la riguarda come parlamentare. Il caso Cosentino, lei è per l'arresto o contro l'arresto? Sono assolutamente contro l'arresto, lo ritengo un'ingiustizia e un atto di mancanza di rispetto delle regole, diventerebbe una decisione solamente politica e non una decisione rispettosa del quadro processuale, che per me è assolutamente chiaro, in senso non colpevolista. Non colpevolista, però c'è una richiesta della procura, insomma. No, guardi che non è la prima volta. L'onorevole Margiotta del PD, e quindi cito apposta un parlamentare che non è del PDL, del mio partito, è stato oggetto di una misura cautelare. E la Camera ha respinto la richiesta, poi il Tribunale lo ha assolto. Se fosse andato in carcere, cosa avremmo fatto? Rovinato la vita di una persona? È tutto chiaro. Vi ringrazio, ci fermiamo e ci troviamo domattina alle 7:20.